Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. Oggi è giovedì 9 marzo, ben ritrovati con il primo mattino di Radio Monte Carlo. Ancora buona giornata a voi da Claudio Michalizio, dalla redazione di RMC News e da Mattia Brena che cura la regia di questa striscia quotidiana. Stiamo insieme tutti i giorni tra le 6 e le 7 per raccontarci l'attualità di giornata prendendo spunto dai titoli che dominano le aperture dei giornali italiani. Oggi prime pagine piuttosto eterogenee, anche perché, diciamo la verità, non è che ci sia il fatto del giorno che determina la gerarchia delle notizie in tutte le redazioni, e allora noi scegliamo di aprire con un tema che va dall'economia alla questione migranti, tenendo sullo sfondo però il dibattito che si sta facendo sempre più acceso sul futuro dell'Europa. Sapete che il prossimo 25 marzo ci sarà a Roma, in occasione del 60° anniversario del Trattato di Roma, che sancirono l'inizio del progetto di unificazione europea, un vertice molto importante in cui i leader dei principali capi di Stato, i principali capi di Stato europei, dovrebbero in teoria porre le basi per rifondare l'Unione. Questo almeno secondo gli intendimenti ribaditi nelle ultime settimane in più occasioni. E oggi c'è una sorta di antipasto, perché a Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo, che dovrebbe intanto discutere delle prime bozze di cambiamento dell'Europa già circolate e poi della questione migranti. A proposito però del futuro dell'Europa, sembra prendere piede l'ipotesi che si arrivi a un'unione a due velocità, a più velocità, cioè all'interno di questa grande coalizione di Stati. stati si cercheranno di mettere insieme gli interessi di quelle, di quei paesi più affini, quelli magari più per una politica, se vogliamo, economica rigida, come piace per esempio alla Germania, e altri stati, io immagino ci sia l'Italia, che invece chiedono più flessibilità, perché altrimenti non hanno più buchi per tirare ancora la cinghia. Ieri il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo in Parlamento alla vigilia proprio del Consiglio Europeo, ha ribadito che l'ipotesi di diversificare le marce all'interno dell'Europa non deve essere vista come un tabù. Di fatto su molti temi già questo sta accadendo, però attenzione, perché l'Europa a due velocità, dice il capo del governo italiano, non deve essere un pretesto per i furbetti, per quanti all'interno dell'Unione non fanno già oggi il loro dovere. Io non mi rassegno all'idea di una Unione che abbia due diverse rigidità, una rigidità assolutamente inamovibile quando si parla di bilanci e una rigidità molto tollerante quando si parla di decisioni che affrontano questioni di principio come la condivisione dell'impegno sui temi migratori, che non può essere lasciato soltanto ai paesi che la geografia ha messo in prima linea. Eh già, perché risolvere la questione migranti neanche Mago Merlino con la sua bacchetta magica potrebbe farlo, lo ha detto ieri, sicuramente avrete già sentito da altre parti questo passaggio dell'intervento di Gentiloni, arrivato nel giorno in cui si è saputo che il Consiglio ed Europa ha bacchettato ancora una volta l'Italia per come sta gestendo la questione migranti. Non riusciamo a identificarli tutto, il sistema italiano dell'accoglienza è al collasso, quindi è ancora una volta l'Europa che bacchetta l'Italia, lasciata comunque sola in prima linea gestire questo problema. Tutto nasce dalla necessità di rivedere le regole, a cominciare da quel famigerato trattato di Dublino, che prevede che il migrante che tocca terreno per la prima volta in Europa, per esempio in Italia, debba aspettare in Italia che avvenga tutto il processo di riconoscimento sullo status magari di rifugiato politico che ha chiesto, mentre i migranti stessi per primi dicono: fateci arrivare nel paese dove vorremmo trasferirci, per esempio la Germania, e lasciate che siano le autorità tedesche a fare tutte le verifiche. Ma perché, nonostante tutti a parole siano d'accordo, non si riesce a riformare questo modello organizzativo? È la domanda che abbiamo girato a Gianfranco Schiavone, che è il vicepresidente dell'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione. Perché non è stato ancora stabilito qual è un meccanismo alternativo. Questa logica nasce in un contesto storico completamente diverso, quello degli anni 90, ed era finalizzato appunto a cercare di riequilibrare un po' le presenze fra i paesi del centro nord Europa e i paesi dell'area mediterranea, in particolare quelli con confini appunto esterni, terrestri o marittimi. Oggi il quadro è completamente cambiato e questo sistema dovrebbe essere modificato da un sistema di ripartizione di quote tra i vari paesi. Sono allo studio della Commissione Europea varie proposte, ma in realtà su nessuna di queste sembra esserci un largo consenso, perché richiede nuove assunzioni di responsabilità a tutti gli stati dell'Unione. E ovviamente i vari capi di Stato, i vari governi, i vari partiti che in ogni paese ci sono, non hanno grande convenienza a gestire in modo lungimirante un progetto che è un problema che inevitabilmente non attira consensi elettorali. Chiudiamo su questo argomento con un'intervista che trovate, se volete approfondire il tema, sulla prima pagina del Corriere della Sera, fatta al ministro dell'Interno Marco Minniti. Ribadisce quella che è la linea italiana da qualche tempo a questa parte, cioè quella di arrivare a un vertice a Roma che preveda sul tavolo progetti concreti per coinvolgere quegli stati africani da cui più massiccio è il flusso dei migranti. È una ipotesi ricorrente, un modo per evitare che i barconi salpino. In realtà va detto che tutte le volte che un trattato, anche pochi mesi fa, se ricordate, è stato sottoscritto con la Libia, non è che abbiano poi risolto il problema dei flussi migratori nel Mediterraneo, ma è una delle ricette che si sta cercando di perseguire. 6:12 minuti, questa è Radio Monte Carlo. I love my life, I am powerless. Quarto di questo giovedì 9 marzo, ancora buona giornata, siete con Radio Monte Carlo nel nostro primo mattino. Dicevamo, la questione migranti alla vigilia di un nuovo vertice europeo che dovrà affrontare anche questo tema è uno degli argomenti che trovate sulle prime pagine dei giornali italiani. Poi ci sono molti spunti di tipo economico, anche lo sciopero di ieri dell'8 marzo, quello in occasione della giornata internazionale delle donne, viene in queste ore preso in esame da autorevoli penne del giornalismo italiano e commentatori per le ricadute che ha avuto. È stato uno sciopero che non ha avuto una grandissima eco, soprattutto se l'obiettivo era mobilitare le donne. Dicono le statistiche avvalorate dai sindacati stessi che hanno scioperato soprattutto i maschi, per cui alla fine insomma, qualche maschietto ha anche approfittato di questa rivolta in rosa per poter poi giustamente avallare questa battaglia culturale che è necessaria nel nostro paese. Ma vi segnalo un paio di spunti che in queste ore fanno capire come, dal punto di vista forse anche dell'immagine, l'idea di usare l'8 marzo per lo sciopero non sia stata molto apprezzata. Dario Di Vico, torniamo sempre sul Corriere della Sera, in prima pagina dice che certo le ragioni della mobilitazione erano giuste, però in realtà lo sciopero di fondo è stato un errore, sia perché non ha avuto una vastissima eco, sia perché soprattutto ha creato disagi alle donne stesse, un tema che avevamo approfondito anche ieri mattina con una nostra ospite qui su Radio Monte Carlo. E poi vi segnalo una voce molto critica, la trovate sulla prima pagina del giornale, Marina Salamon, un'imprenditrice italiana molto famosa, che dice: io, femminista, ho festeggiato lavorando perché lo sciopero l'8 marzo in realtà è stato un autogol, ha danneggiato tutti. Potete trovare tutti i dettagli appunto sul quotidiano Il Giornale. Ma c'è un'altra questione che oggi apre sia Repubblica sia La Stampa, ed è questa tassa che è spuntata ieri quasi all'improvviso, è già in vigore, la flat tax. Una tassa come le tariffe telefoniche, 100.000 euro l'anno, che viene applicata ai paperoni che vivono all'estero, nel caso in cui avessero la volontà di venire a vivere in Italia. Altri paesi l'hanno già adottata questa misura, è un modo per attirare capitali nella speranza anche che poi queste persone possano investire in Italia. Ci sono già delle polemiche, qualcuno dice: ma come, voi ospitate per pochi soldi queste persone, che senso ha una misura di questo tipo? Adele Costantini ha cercato di capirne di più con Giovanni Parente, giornalista del Sole 24 Ore. Nello specifico si tratta di un'imposta di 100.000 euro che viene applicata a quelli che sono stati denominati paperoni, in realtà sono soggetti con elevati patrimoni che decidono di trasferirsi in Italia. Attenzione, è un'imposta fissa che però ricopre soltanto i redditi delle attività che il contribuente si trasferisce in Italia continua a detenere all'estero, quindi insomma non copre i redditi che poi eventualmente verranno prodotti con attività in Italia. Ma funzionerà? L'obiettivo è quella di farla funzionare, l'obiettivo è soprattutto di attrarre i capitali stranieri in fuga dall'Inghilterra dopo la Brexit. È un tentativo che viene fatto insieme ad altre misure che erano state previste all'interno della legge di bilancio. Ad esempio c'è un visto d'ingresso, diciamo così, per così dire, economico per i grandi investitori che vengono in Italia a portare i loro capitali all'interno di start-up o li investono in bot, oppure ancora investono nel miglioramento della tutela del paesaggio, della tutela artistica del nostro paese. Ci sono già dei dati sui possibili interessati? Abbiamo qualche dato informale su gli interessamenti. Alla scorsa settimana erano circa un migliaio i soggetti interessati a questa nuova normativa ed è stato ritenuto un dato altamente sorprendente. Questa è l'analisi dunque di Giovanni Parente, firma del Sole 24 Ore. Si sta parlando sì di un migliaio di contribuenti che potrebbero adottare questa flat tax nel caso in cui appunto decidessero di venire a vivere dall'Italia, dall'estero in Italia, portando inevitabilmente anche il loro indotto di patrimoni. In realtà i giornali non è che siano entusiasti di fronte a questa idea. Vi segnalo tra i commenti che potete trovare sulla prima pagina della Stampa Stefano Lepri, il titolo è già indicativo: tanto rumore ma pochi guadagni, ne valeva la pena, è l'incipit di questo articolo, posto che alla fine le stime più rosee prevedono di poter portare a casa circa 100 milioni di euro. Stiamo parlando dello 0,02% del gettito fiscale complessivo. Ha senso una misura di questo tipo per portare a casa così poco? Lasciando sullo sfondo l'immagine che abbiamo bisogno di rastrellare denaro tra le righe, è un po' questa l'obiezione che viene mossa, è uno degli argomenti sui quali si discute in queste ore in Italia. 6:20 minuti nel primo mattino di Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Grande musica. Lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei tra i compiti di inglese e matematica. Tuo padre i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, con gli amici parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile. 6:28 minuti che tuffo nel passato con Radio Monte Carlo. C'è la grande musica anche italiana, ma poi ci sono le notizie in primo piano. Allora, tre temi che fanno discutere, oltre alla tassa per i paperoni che già sta incamerando messaggi al 342 41 41 762, è entrata in vigore anche perché è prevista dalla legge di stabilità, prevede un gettito di circa 100 milioni di euro. Si discute anche della questione migranti, uno dei temi caldi che l'Europa, che vuole riformarsi, deve iniziare ad affrontare in vista del vertice di Roma del 25 marzo, ma anche del Consiglio europeo che si aprirà a Bruxelles tra poche ore. Dice Gentiloni: un'Europa a due marce ci può stare, basta che non sia l'ennesimo alibi per chi vuole fare il furbo. Torna in primo piano nel dibattito politico anche il caso Consip. Ieri, ospite di Bruno Vespa su Rai 1 a Porta a Porta, Matteo Renzi dice: se mio padre Tiziano, coinvolto marginalmente in questa vicenda, delle responsabilità, è giusto che paghi il doppio. E poi per il calcio, stasera in Europa League la Roma in campo, cerca riscatto a Lione. In Champions, ieri sera Barcellona a Valanga 6-1 sul Paris Saint-Germain, conquista il passaggio ai quarti di finale. E adesso con Flavio Galbiati al Centro Epson Meteo è tempo di previsioni. Buongiorno Flavio. Sì, buongiorno, buone notizie. Con l'arrivo dell'alta pressione il tempo sarà bello oggi nei prossimi giorni in gran parte dell'Italia. Oggi il miglioramento riguarda anche il sud della Sicilia, che hanno visto fino a ieri anche delle piogge. I venti però proprio al sud resteranno piuttosto sostenuti, ancora venti di tramontana. Vi segnalo il passaggio di qualche velatura sia al nord che sul Principato di Monaco, nubi localmente un po' più consistenti solo sull'arco alpino più settentrionale e temperature in aumento con valori massimi tipicamente primaverili tra oggi e domani, punte che potranno raggiungere anche i 20 gradi. Grazie a Flavio Galbiati, tutti i dettagli se volete su meteo.it. Everything about you. 33 minuti, ancora buona giornata in questo giovedì 9 marzo, nel primo mattino di Radio Monte Carlo. Parliamo di lavoro, intanto perché il Sole 24 Ore in prima pagina ci ricorda che oggi alla Camera dovrebbe essere varata una ennesima appendice al Jobs Act, sapete la riforma varata ormai qualche anno fa dall'allora governo Renzi. Sono previste misure in modo particolare per i lavoratori autonomi, per le partite IVA, parliamo di 2 milioni di professionisti che avranno più tutele per la maternità, la malattia o l'infortunio, e il testo poi in caso di via libera da Montecitorio passerà al Senato. Ma si continua a discutere anche della riforma dei voucher, sapete i tagliandi per le prestazioni occasionali, no? 10 euro vai in tabaccheria, ti danno 7 euro, 3 vengono versati per i contributi. Ci sono molte polemiche perché negli ultimi anni il loro utilizzo è cresciuto a dismisura. Pensate che nel 2008, dicono le statistiche, se ne vendevano poche migliaia, l'anno scorso nel 2016 ne sono stati venduti 134 milioni di questi voucher, quindi evidentemente un abuso c'è. Il problema è che non si trova la quadra. Come riformarli? Cancellarli di tutto? Adottarli soltanto per alcune aziende? Soltanto per l'agricoltura? Ieri la FIPE Confcommercio, che è l'associazione di categoria dei baristi, degli esercenti, dei ristoranti, ha chiesto al governo di non fare errori, di non cancellare i voucher, dicendo che sono molto importanti per la loro categoria. È lo strumento più flessibile per gestire i picchi o i cali di manodopera legati all'andamento dei locali pubblici. Una posizione in controtendenza rispetto a quello che si legge in questi giorni. Noi vogliamo capirne di più con il presidente di FIPE Confcommercio, Lino Enrico Stoppani. Buongiorno e benvenuto su Radio Monte Carlo. Grazie per l'ospitalità. Buongiorno a tutti. Allora, voi sostanzialmente siete contrari rispetto alla cancellazione dei voucher, chiedete che almeno per la vostra categoria restino. Questa è un po' la vostra posizione, no? Non siamo da soli in questa posizione, perché il tema dei voucher certamente riguarda il pubblico esercizio, ma riguarda in generale un po' il mondo delle imprese. Per cui la contrarietà non tanto al ridimensionamento, alla cancellazione, ma quella dell'eliminazione dello strumento è giustificata essenzialmente da tre motivi. Sì. Che sono quelli che a suo tempo avevano suggerito l'istituzione dello strumento, per sì. cui se questi presupposti sono ancora attuali, e su questo mi pare che siamo tutti d'accordo, prevedere la cancellazione di questo strumento vorrebbe dire ritornare in situazioni in cui le imprese hanno difficoltà a sostenere i picchi di lavoro, oppure quella di dover pagare in nero attività che oggi grazie ai voucher invece pian piano stanno emergendo, oppure ancora non dare possibilità ai giovani di avere comunque un reddito che li renda un po' indipendenti rispetto alle loro famiglie. Cioè, insomma, voi dite la cancellazione dei voucher creerebbe forse più danni che vantaggi, mi par di capire. Tra l'altro c'è anche un'altra constatazione, che il valore in termini assoluti dei voucher, nonostante così gli eccessi nelle posizioni, è assolutamente minimale, insomma, rispetto al costo complessivo del lavoro nel nostro settore incide per l'1,1%, che è assolutamente insignificante, insomma, se vogliamo valutarlo anche dal punto di vista dei numeri. Ecco, io ho capito, però voi avete sicuramente sentito che il mood del paese è quello di evitare gli abusi. Non temete che difendendo i voucher in qualche modo la vostra stessa posizione possa rivelarsi in qualche modo impopolare? Beh, ascolti, per quanto riguarda il termine abuso, insomma, certamente ci sono usi impropri, ci sono stati anche abusi. Ma se il riferimento è riservato alla categoria dei pubblici esercizi, l'ho detto, insomma, l'abuso viene anche misurato, e se l'uso dei voucher nel nostro settore vale l'1,1% del costo del lavoro complessivo, mi pare che parlare di abusi sia un'esagerazione. Senta, ieri Susanna Camusso, lei sa, leader della CGIL, ha ribadito che sui voucher non accetterà mai degli accordi a ribasso con il governo, addirittura dice piuttosto facciamo una legge specifica. Come giudica la posizione della CGIL? Beh, sai, è chiaro che io rispetto le posizioni tutte, poi certamente le organizzazioni sindacali molto spesso hanno posizioni, punti di vista, osservatori diversi rispetto a quelle delle imprese. Il rappresentante delle imprese è quello di favorire quello che è la disponibilità di strumenti di flessibilità del lavoro che siano corretti, che siano giusti. È chiaro che poi ci sono gli abusi, sono consapevole anch'io che dietro il voucher c'è molto di precarietà, però insomma questo era uno strumento che in passato veniva gestito con il lavoro nero, lo dico con grande sincerità, insomma, con i voucher, certamente non è lo strumento ideale, però insomma nel frattempo si coltiva anche quella che è l'aspetto di diligenza, di attenzione alle norme, che pian piano va fertilizzato anche dando delle convenienze che devono essere, come dicevo prima, considerate come un investimento sulla legalità. Ma Stoppani, lei non teme che se il governo, supponiamo, conceda a voi una deroga, non c'è il rischio che in teoria poi anche altri settori sulla base di questo precedente possano chiedere altrettanto? Ma parliamo sempre di forti limiti nel loro utilizzo dati dagli importi. Lei sa che ogni imprenditore non può dare ad un singolo lavoratore più di 2.000 euro all'anno e uno stesso lavoratore non può incassare complessivamente più di 7.000 euro all'anno. Insomma, parliamo di importi mi sembra limitati, insomma, per cui se questi sono gli importi li possiamo limare eventualmente o disciplinare in un altro modo, ma guai a cancellare uno strumento che sta facendo educazione anche su quello che è il lavoro regolare. Diciamo che la vostra posizione è molto chiara. Ancora ieri il ministro Giuliano Poletti in un'intervista sull'argomento ha detto: no, dobbiamo assolutamente rivedere le regole. Certo, voi dite cancellarli sarebbe un danno quantomeno per la vostra categoria. La ringrazio per essere stato con noi. Lino Enrico Stoppani, lo ricordo, è il presidente di FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercenti, che fa capo a Confcommercio. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità. Buona giornata. 6:39 minuti, questo è il primo mattino di Radio Monte Carlo. the price tag. Le 6:43 minuti, siete su Radio Monte Carlo nel nostro primo mattino. Già prima abbiamo avuto modo di dire come oggi sui giornali trovate storie, cronache, commenti, analisi sull'8 marzo che ci siamo lasciati alle spalle, sui temi legati al mondo femminile che anche noi di RMC News ogni ora abbiamo cercato di approfondire nei nostri notiziari. C'è una notizia curiosa che ci ha colpito ieri tra le tante di denunce, di protesta sui problemi che nel settore ci sono, e arriva dalla Campania. Pensate, in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, la Reggia del Vanvitelli a Caserta, hanno scelto proprio la data dell'8 marzo per inaugurare il Baby Pit Stop UNICEF, un'area attrezzata per l'allattamento dei visitatori, dei piccoli visitatori all'interno proprio della Reggia. È uno dei primissimi musei italiani a dotarsi di questo servizio. La cosa ci ha colpito, allora abbiamo chiesto a Geri Romano di chiedere come si è arrivati a questa decisione. Sentite Mauro Felicori, che è il direttore della Reggia di Caserta. Chiamiamola una piccola grande cosa, piccola perché non è che ha richiesto chissà quale impegno, però grande nel senso che cerchiamo di avvicinare i nostri musei ad uno standard di accoglienza adeguato. L'abbiamo inaugurato questo Baby Pit Stop nel giorno delle donne, è uno spazio per l'allattamento, per poter allattare i bambini in modo riservato, però anche uno spazio per cambiare i pannolini ai bambini, e quindi è lì che speriamo che anche i padri facciano il loro dovere. Sarà qualcosa di permanente? È un servizio permanente ed è un modo per dare il benvenuto al nostro pubblico. Tenga conto che la Reggia di Caserta, a differenza di tanti musei, è un museo popolare, e quindi i servizi alle mamme e padri sono evidentemente molto importanti, perché tante famiglie arrivano, i servizi per i neonati sono importanti. Qui dunque avete sentito Mauro Felicori, il direttore della Reggia di Caserta, un'iniziativa importante, ci ha fatto piacere poterla evidenziare stamane. 6:45, tra poco parliamo di voi, che quando siete al volante usate il cellulare, attenzione, perché potrebbe arrivare un giro di vite grazie anche al Grande Fratello. Solo musica di gran classe. It's a pocket full of misery, trouble on the wind. You spoiled the best years of your life, you took them all in vain. Now you think that you're forgiven, but you can't be born again. You say why, you say sweet promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all I'm not afraid to die. e 53 minuti di questo giovedì 9 marzo, ancora buona giornata dal primo mattino di Radio Monte Carlo. Gli ultimi scampoli di questa trasmissione li dedichiamo a una notizia che arriva da oltremanica, dal Regno Unito, dove per arginare il fenomeno dilagante degli automobilisti indisciplinati che guidano usando lo smartphone contemporaneamente, il governo sta pensando ad una serie di leggi molto severe. Intanto verranno inasprite le pene per chi guida distratto e provoca un incidente mortale. Oggi si rischiano fino a 14 anni di carcere, l'obiettivo è arrivare addirittura all'ergastolo, ma poi verranno aumentate anche le multe. E qual è la notizia che ci ha colpito? Che per essere sicuri di beccare tutti i furbetti dello smartphone, le autorità locali hanno già iniziato ad acquistare delle speciali telecamere che riescono a entrare dentro l'abitacolo dell'auto e vedere se tu, mentre sfrecci alla guida della tua vettura, stai usando o meno lo smartphone. È un provvedimento che sta facendo molto discutere, ma attenzione, potrebbe arrivare anche in Italia, perché comunque il dubbio dietro l'angolo c'è. Voi sapete che anche qui si sta cercando di rivedere le regole del codice della strada e rendere più severe le multe per chi abusa di questi strumenti elettronici. Boris Mantova ne ha parlato con Giordano Biserni, che è il presidente dell'Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale. Tutto può arrivare anche in Italia, sono tecnologie d'avanguardia, noi siamo all'avanguardia in altre tecnologie, per esempio sul tutor e altre tecnologie molto fini, certamente arriveranno molto presto anche in Italia. Come funzionano questo tipo di telecamere? Cioè riescono a guardare all'interno dell'abitacolo? C'è un sistema a distanza che riesce a registrare l'utilizzo del cellulare sia in fonia sia mentre il conducente lo sta guardando per WhatsApp, permetterà di intercettare l'utilizzo del cellulare con qualche altro sistema che sia inequivocabile. Cioè tutti si stanno attrezzando su questo versante. Quindi anche in Italia è attesa una stretta? Una stretta dovrà arrivare sicuramente, non solo con campagne ma anche con controlli e anche con una modifica legislativa, sospensione della patente al primo colpo. Una misura questa che dicevamo fa discutere oltre manica, anche qui in Italia possiamo prevedere che qualche polemica ci sarà. Grazie a Giordano Biserni dell'Associazione Amici della Polizia Stradale. 5 minuti e arrivano le ultime notizie su Monte Carlo. 6:58 minuti, siamo pronti per la seconda edizione di RMC News. Poi arrivano Valli e Porticelli che già borbottano in sottofondo, li state sentendo. Prima però i consigli per il cinema.